e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, e allora sì, siamo tornate a Milano, ma non staremo ferme a lungo. Lo sapete che quando arriva la bella stagione, a cuore e denari piace andare in giro per l'Italia, e dopo Trento questa settimana toccherà ad un'altra città con la T, la tua Torino, Nicoletta. È vero, andiamo proprio a Torino. Ci saremo giovedì, esatto, saremo al Salone dell'Auto nel bellissimo Parco del Valentino, ma intanto riprendiamo la settimana qui nei nostri studi di Milano. E a proposito di bella stagione di vacanze che si avvicinano per i denari, dopo il consueto appuntamento sui mercati, aggiornamento sui mercati che faremo tra poco, parleremo per i denari di affitti brevi, quelli che per definizione si applicano alle case nelle località turistiche, ma non solo. Torniamo a fare il punto su quella che è stata soprannominata tassa Airbnb, doveva entrare tutta in vigore dal 1 giugno, ma in realtà, come al solito, siamo a metà, chissà perché, e cercheremo di capirne qualcosa in più. Allora, nella seconda parte di Cuore Denari invece cambieremo decisamente argomento, parleremo di pelle. Abbiamo deciso di dedicare il mese di giugno alla pelle, quindi i nostri esperti Humanitas, e in particolare il professor Antonio Costanzo, dermatologo a Humanitas, ci aiuteranno a prenderci cura della nostra pelle, possiamo dire, Deborah, dalla testa, dalla punta del capello alla punta del nostro alluce, e quindi parleremo di prevenzione, parleremo anche di cure, di nuove terapie. Se soffrite di una malattia in particolare, chiamateci, ci sono delle malattie della pelle che con il sole migliorano, ma è opportuno avere delle adeguate attenzioni. Quindi vi aspettiamo, 800 24 00 24, abbiamo un mese di tempo per perlustrare l'organo più esteso del nostro corpo, che racconta molto della nostra salute e anche del nostro mondo emotivo. Benissimo, si parte. Allora, naturalmente un'occhiata all'apertura della settimana finanziaria, che vede prevalere il segno meno fra i listini continentali. Abbiamo in questo momento un ribasso di Milano dello 0,7%, meno 0,52% Parigi, e poi la grande osservata speciale di queste ore, Londra, in calo invece dello 0,10%. Per festività oggi è chiusa la Germania, ma è chiusa anche la piazza svizzera, sono chiuse anche le piazze austriaca e danese. E molti gli appuntamenti che terremo sotto osservazione per tutta la settimana. Stamattina ci sono state già delle statistiche molto importanti che sono arrivate dal Giappone, dalla Cina, ma anche dall'Europa. Il dato principale che è arrivato da tutte queste economie è l'indice PMI servizi, che in Italia in particolar modo è sceso, mentre è salito in Cina e in Giappone. Adesso lo commenteremo, ma gli altri appuntamenti centrali della settimana invece si rifanno intanto alle elezioni britanniche di giovedì prossimo, quando saremo al Parco del Valentino con Nicoletta, ma contemporaneamente ci sarà anche un'altra importante riunione per la Banca Centrale Europea, con nell'attesa conferenza stampa di Mario Draghi. Anche l'Europa viene strettamente tenuta sotto osservazione per quello che riguarda le prossime mosse di politica monetaria. Si va in direzione ancora diversa rispetto alla Banca Centrale Americana, che invece questo mese metterà in atto un altro aumento dei tassi di interesse, anche se il dato sulla disoccupazione di venerdì scorso, quello che si riferisce al mese di maggio, non è stato particolarmente brillante. Gli altri temi di questa mattina: la borsa del Qatar, che sta perdendo fra i 7 e gli 8 punti percentuali dopo la notizia appunto di politica internazionale, che è stata richiamata più volte stamattina dai nostri giornali radio. Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici con l'Emirato appunto del Qatar, una decisione che arriva dopo le crescenti tensioni fra i paesi del Golfo per il presunto appoggio di Doha a gruppi islamisti, e questa notizia ha riportato in su il prezzo del petrolio. Io vi ho fatto un po' la cornice della situazione. Per i dettagli sentiamo stamattina Luca Di Scacciati, trader, analista finanziario di investire.biz, che salutiamo. Luca, buongiorno e ben ritrovato a Cuore Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Ma sai che Luca Di Scacciati era anche a Trento? E non è venuto a trovarci. Ma l'ho incontrato io venerdì dopo che tu mi hai lasciato. Casualmente. Peraltro sono arrivato poco dopo che Nicoletta è ripartita, altrimenti sarei venuta a salutarlo. Però Luca, so che sei andato naturalmente a seguire alcune delle conferenze di questo festival incentrato sulle diseguaglianze, in particolar modo nel settore della sanità, ma in realtà sono tutte legate, quelle della sanità, quelle economiche, di reddito, finanziarie, no? Che cosa ti ha colpito particolarmente di questo festival? Allora, l'intervento migliore, secondo me, è quello che ha dato poi uno spunto che può essere riportato anche alla vita reale, perché il problema un po' degli economisti è sempre quello di essere un po' fuori dal mondo ogni tanto. Invece Michael Marmot davvero mi ha colpito. Michael Marmot è professore di epidemiologia all'università, all'University College di Londra, ha fatto vedere un grafico dove riportava la differenza di reddito tra l'1% della popolazione più ricca e chiaramente la popolazione più povera, e questa differenza ha raggiunto i livelli storici massimi del 1929, eh sì. Quindi un campanello d'allarme molto, certo, molto interessante. Noi abbiamo parlato a lungo di Marmot anche a Cuore e Denari per tutta la nostra ora e mezza, e poi lo abbiamo fatto anche a Focus Economia intervistando Tito Boeri, non solo presidente dell'INPS ma anche patron del Festival dell'Economia. Volevi aggiungere qualcosa, no, Nicoletta? No. Allora, andiamo ai mercati, Luca. Oggi quello tedesco chiuso per la festività di Pentecoste, come la Svizzera, regolarmente aperte le altre piazze. Diciamo che le vicende del weekend di Londra interferiscono come al solito relativamente sui mercati, esatto, più concentrati invece sui dati macroeconomici. Esatto, il dato che citavi tu prima dei direttori degli acquisti nel settore servizi è uscito in calo rispetto alle aspettative, di conseguenza la borsa, come hai già detto tu, ha accelerato al ribasso e in questo momento appunto perde uno 0,69%, quindi niente di drammatico, anche perché la settimana, gli eventi più importanti della settimana saranno di fatto giovedì, dove, come giustamente ricordavi tu, ci si aspetta la conferenza stampa della BCE, ma soprattutto, a mio avviso, ci saranno le elezioni in UK, dove Theresa May punta ad avere una maggioranza netta per proseguire l'iter della Brexit, e una notizia dagli Stati Uniti, appunto, sempre giovedì 8 dovrebbe parlare Comey davanti al Senato USA. Infatti l'ex capo dell'FBI dovrebbe confermare di aver ricevuto pressioni da parte di Trump al fine di interrompere le indagini su quello che viene chiamato ormai Russia Gate. È un qualcosa che probabilmente i mercati stanno sottovalutando, perché c'è davvero un rischio impeachment per il neo presidente degli Stati Uniti. Anche se lui cerca un po' di distogliere l'attenzione da tutto questo, magari chiudendo anche le porte agli accordi di Parigi sul clima, facendo tante altre cose, ma in realtà questa vicenda, tra virgolette, interna ed internazionale pesa moltissimo. Ne riparleremo nei prossimi giorni. Allora, il triplete non è riuscita alla Juventus sabato sera, con mio grande dolore. Ma in compenso è riuscita Wall Street venerdì scorso, perché gli indici americani sono riusciti a mettere a segno ancora una volta una tripletta di record, archiviando la seconda settimana di fila in aumento. Continua a volare la tecnologia e noi a breve avremo delle novità dal mondo Apple. Luca. Esatto, infatti alle ore 19 di questa sera, ora italiana, ci sarà l'attesissima riunione dedicata agli sviluppatori software di Apple, una riunione davvero importante, dato che, come giustamente hai detto tu, tutti i rialzi sono stati trainati dal settore tech, quindi gli occhi sono puntati su Apple, che è una delle società chiaramente più grandi al mondo proprio per quanto riguarda la tecnologia. Una piccola curiosità su questa conferenza: partecipare costa oltre $1,500 e addirittura chi parteciperà ha dovuto partecipare ad una sorta di lotteria, perché le iscrizioni erano molto molto andavano a ruba, più che il pranzo con Obama. Niente, io e Nicoletta non ce l'abbiamo fatta, infatti ci eravamo prenotate, poi abbiamo visto che costava troppo e abbiamo deciso ci andiamo l'anno prossimo. Ma no, meglio andare a Torino, dai, così siete vicini, esatto, a casa di Nicoletta. Allora, intanto un'occhiata rapida ai migliori e peggiori titoli di Piazza Affari, in realtà con il segno più ne vediamo pochi, appena tre, e guadagnano pochissimo. Campari, Eni e Salvatore Ferragamo sono poco al di sopra della parità, Tenaris sulla parità, e poi partono tutti i segni meno. I peggiori sono Mediaset, perde 2 punti, abbiamo 1,5 punti di ribasso per il Banco BPM, UbiBanca, Recordati, che comunque aveva preso dei livelli record negli ultimi giorni, Italgas dopo il piano industriale aveva corso tanto, oggi frena per l'1,4, Prismian dopo la buona prestazione di venerdì di oggi frena dell'1,40% e tanto per continuare ad infierire, i titoli della Juventus adesso -7%. Luca, un commento su questo, perché è tutto sommato però un gruppo che dal punto di vista dell'analisi fondamentale, come si dice in gergo, i conti comunque vanno piuttosto bene. Ecco, diciamo che la mattinata è tutta emotiva. Esatto, infatti per consolare gli juventini come te, Deborah, abbiamo preparato uno speciale su investire.biz, dove appunto ci aspettavamo un ribasso in apertura di questo titolo per appunto questioni emotive, come dicevi tu prima, al GR. Detto questo, il triplete probabilmente lo farete in borsa, dato che a breve molto probabilmente si chiuderà appunto l'anno fiscale per Juventus con il terzo bilancio positivo consecutivo. Quindi in borsa le performance dovrebbero essere migliori che sul campo. Grazie a Luca Di Scacciati per essere stato con noi. Velocemente il traffico e poi andiamo alla famigerata tassa Airbnb, chissà dove è finita, tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Cuore e denari. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Ci eravamo lasciati a fine aprile con quella che era già stata ribattezzata tassa Airbnb, ovvero l'obbligo per tutti i proprietari che affittano una casa con l'affitto breve, o meglio per gli intermediari immobiliari e quindi anche i portali online come Airbnb, di operare le ritenute del 21%, pagare insomma la cosiddetta cedolare secca. È proprio nell'obbligo per gli intermediari che sta la novità, ed era da qualche tempo che ci si aspettava una norma in questo senso. Un provvedimento governativo, nella cosiddetta manovrina dell'11 aprile, e che sarebbe dovuto partire proprio in questo mese di giugno, dal primo giugno. Giugno è arrivato, ma la tassa Airbnb è già partita, non è partita, si è parlato di una falsa partenza. Cerchiamo di capire perché. Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, ciao. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anche Nicoletta. Ma bentornata, anche a Nicoletta. Hai visto che carino? Visto. E poi salutiamo anche Paolo Righi, presidente nazionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Presidente, benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dobbiamo essere rapidi perché Righi ci concede il suo tempo solo fino alle 11, poi è impegnato, per cui interrogheremo prima di tutto lui, ma in realtà prima di tutto dobbiamo fare invece con Cristiano un riepilogo delle puntate precedenti, no? Dove, visto che abbiamo intitolato questo approfondimento di denari, abbiamo ripescato la sigletta del dove eravamo rimasti. Cristiano, allora, qual era la novità che proprietari ed intermediari si aspettavano e dove è rimasta nel frattempo? Allora, a che punto siamo? Siamo al punto in cui la Camera ha approvato la legge di conversione del decreto, della manovrina, che contiene appunto questa norma. Attualmente il testo è al Senato per l'approvazione definitiva. L'impressione è che il Senato dovrebbe approvare senza fare modifiche, però non diamo la cosa per scontata. C'è tempo per l'approvazione definitiva fino al 23 di giugno. Allora, che cosa doveva scattare esattamente dal primo giugno, dunque? Perché si parla di una falsa partenza? Allora, si parla di una falsa partenza perché la norma prevede l'obbligo di applicare una ritenuta del 21% per quanto riguarda le locazioni brevi, le locazioni turistiche. A carico di chi è questa ritenuta? È a carico di quei soggetti che svolgono, per così dire, un'attività di intermediazione immobiliare. E poi è stato precisato in sede di conversione alla Camera, ma già lo si capiva prima, anche coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto chi cerca un immobile da affittare e chi lo mette a disposizione per l'affitto. Una cosa importante da dire: l'obbligo di fare la ritenuta scatta dal primo di giugno, però scatta per gli affitti stipulati dal primo di giugno. Ah, quindi non di farla proprio concretamente, insomma. Beh, dipende. Diciamo che se io la prossima settimana o un affitto che comincia, ma l'ho stipulato a maggio e il contratto reca la data di maggio, beh, quello non è soggetto all'obbligo di ritenuta perché è stato stipulato prima del primo giugno. Quindi buona parte delle locazioni estive, per chi si è già mosso per tempo, come spesso succede, perché se controllate vedete che moltissimi affitti sono già stati decisi per la stagione che comincia adesso, beh, queste saranno escluse. Poi invece per le locazioni stipulate da giugno, magari qui possiamo sentire già subito Righi, c'è il problema che non si sa bene come farla questa ritenuta. Mancano i codici tributo per il versamento. Esatto, perché insomma, ci sono una serie di difficoltà operative. Una problematica fosse proprio questa, di natura formale, la mancanza proprio dell'identificazione del cosiddetto codice tributo, quindi un intervento che deve fare l'Agenzia delle Entrate, una delle tante. Uno dei problemi. Paolo Righi, allora, gli agenti immobiliari sono tipicamente dei soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare. Come intendete comportarvi in questo frangente? Che tipo di chiarimento state dando, anche se ve li chiedono ai vostri associati, appunto? Che problemi avete in questo momento per gestire questo problema? Problemi sono tanti, anche perché è vero, la norma parte dal 1° di giugno, ma ricordiamoci sempre che questa norma fa pagare il 21% di tasse ai proprietari di casa. Gli agenti immobiliari sono coloro i quali applicano la ritenuta d'acconto alla fonte quando incassino i denari, quindi gli agenti immobiliari che incassano per conto dei proprietari di casa devono trattenere le somme e poi e quindi diventano sostituti d'imposta. Ma non succede, diciamo, spesso. La tassa del 21% esiste anche per i proprietari normali, voglio dire, che non ricorrono alle agenzie. Noi abbiamo inviato a tutti i nostri associati un vademecum di ben 10 pagine, perché il grande problema è che pensare di far diventare sostituti d'imposta una categoria che non ha mai fatto, cioè non siamo commercialisti, non ci sono le basi, a mio parere, anche strumentali per fare queste cose, ha bisogno di un po' di tempo. Siamo in attesa che l'Agenzia delle Entrate ci comunichi, ci diano tutti i documenti, la fase applicativa che dovrebbe scattare dal 23 di giugno, 24 di giugno, e in questo momento stiamo consigliando ai nostri agenti immobiliari di prepararsi a non incassare più gli affitti, perché peraltro le multe vanno da 250 certo, a 2.000 euro. E quindi di insistere per il fatto che il denaro passi direttamente dal affittuario eventualmente al proprietario, che a sua volta poi se la sbrigherà con il fisco. Quindi non ne volete sapere niente, ma solo perché è una questione un po' complicata. Noi abbiamo calcolato, certo, sulla nostra categoria, diventare sostituti d'imposta a livello burocratico peserà per circa 95 milioni di euro. Ah, come avete quantificato? Perché? Abbiamo fatto quanto costa ogni operazione. Ogni contratto breve presuppone 8 attività contabili, oltre alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Allora, in manovrina, qui si spera di recuperare, lo Stato spera di far emergere, diciamo, 83 milioni di euro. È sintomatico ed è chiaro, e questa è la fotografia del nostro Stato, gli agenti immobiliari pagano 90 milioni di tasse nascoste, di pesi burocratici, per incassarne forse 83. È fantastico. Certo. Righi, lei è stato interpellato sulla questione anche dal Sole 24 Ore in un pezzo curato dal nostro collega Saverio Fossati, e ha sottolineato che in realtà per gli agenti immobiliari c'è anche un altro rischio dietro a tutti gli adempimenti legati a questo provvedimento, di una doppia ritenuta, cioè pagare il doppio di tasse. Perché? Certo, perché quella che viene definita, che io definisco la falsa tassa Airbnb, perché ricordiamoci che Airbnb, ma questo è un altro capitolo, non pagherà nessuna tassa e forse non farà nemmeno sostituto d'imposta, perché avendo, come dice la Bolkestein, non avendo stabile organizzazione in Italia, non è soggetta alle leggi italiane. Il problema però è se qualora Airbnb... Tutto il tema della web tax che... Esatto, della falsa web tax che non esiste. Diciamo che se Airbnb comunque acconsentisse alle richieste dello Stato italiano, sarebbe lui quello che incassa il denaro per conto del proprietario e dell'agente immobiliare. I denari da Airbnb andrebbero all'agente immobiliare, il quale ribalterebbe poi al proprietario. In questo caso avremmo due persone, due intermediari, tra virgolette, che incassano. Quindi andrà disciplinata dall'Agenzia delle Entrate anche questo passaggio, perché altrimenti si rischia di avere due sostituti d'imposta. Grazie a Paolo Righi per essere stato con noi. A presto, Cristiano. Un minuto di tempo prima della pausa. Effettivamente, questioni aperte dunque sono molte, non solamente la mancanza, come dicevamo, di questo codice tributo per cui deve intervenire l'Agenzia delle Entrate, che cos'altro, insomma, quello che solleva Righi Sì, sono una serie di problemi applicativi ai quali forse non si era pensato all'inizio. Diciamo che la norma è nata perché lo Stato si è fatto, concedetemi l'espressione, si è fatto ingolosire dall'idea di avere un soggetto che era principalmente Airbnb, ma poi la norma è stata estesa a tutti gli agenti, anche a quelli fisici, diciamo di avere un soggetto che, incassando il denaro dall'inquilino e riversandolo al proprietario, trattiene già direttamente le imposte, evitando alla radice il rischio di qualsiasi forma di evasione fiscale. Questa è una cosa che succede ad esempio con i lavoratori dipendenti, è una forma, voglio dire, certo, molto diffusa, ma che quando la si va ad applicare su un settore frammentato come quello delle locazioni, dove intervengono tantissimi soggetti, si creano dei problemi. Ci torniamo subito dopo il giornale radio, intanto per gli ascoltatori 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione, siete proprietari, locatari, inquilini, insomma come vi state comportando in questo momento con gli affitti in breve, a tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da... Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Perdo un po' di tempo perché mi piace un sacco questa canzone di Irene Grandi, Nicoletta. Una bella vacanza un po' duratura, forse ne avremo bisogno, stiamo arrivando un po' con alla i frutta. Gomiti. Esatto, allora aspettate le vacanze, avete prenotato una bella casa in cui trascorrerle, oppure aspettate le vacanze perché siete i proprietari di un appartamento da mettere in affitto anche per periodi brevi, e questo è proprio il periodo che vi permette di guadagnare qualche soldino. Attenzione, perché con la manovrina di aprile, come ricorderete, qualche cosa dal punto di vista fiscale è cambiato ed è arrivata la cosiddetta tassa Airbnb, che riguarda appunto gli intermediari immobiliari, ma ci sono ancora alcuni punti in chiaroscuro, perché questa norma doveva scattare il 1 giugno, in realtà si è trattato di una falsa partenza per tutte le problematiche che vi abbiamo già indicato nella prima parte della trasmissione, e naturalmente adesso però, in attesa di un regime legislativo Cristiano dell'Oste definitivo, in realtà siamo in una fase transitoria, molti ascoltatori si chiedono appunto che cosa devono fare. Allora noi, come dice Nicoletta, partiamo con la nostra batteria di domande da parte degli amici che ci seguono da casa e che ci stanno chiamando stamattina all'800 24 00 24. Vi stiamo chiedendo appunto se affittate il vostro appartamento, se avete scelto di farlo per periodi brevi, vi affidate ai siti di intermediazione o comunque a quali tipi di intermediari, e se avete già avuto delle informazioni rispetto all'introduzione della norma che prevede l'obbligo del pagamento della cedolare secca al 21% con una ritenuta versata tramite gli intermediari, compresi i siti come Airbnb. Allora, la prima ascoltatrice che si candida ad intervenire è Luisa da Milano, che salutiamo. Benvenuta Luisa, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Allora, io affitto tramite Airbnb una stanza del mio appartamento in cui abito e risiedo abitualmente, di mia proprietà l'appartamento, sì. E agli ospiti io do accesso unicamente alla stanza e al bagno. Sì. Volevo sapere se questo tipo di attività rientra in una locazione breve. Come ha gestito fino ad ora dal punto di vista fiscale la questione? È da poco che la faccio, perché non mi sono ancora posto, certo, il problema, perché ho iniziato quest'anno. Benissimo, però vorrei, Luisa, sapere, grazie, come funzionerà. Una situazione estremamente diffusa quella di Luisa, lo commentavamo anche questo aspetto proprio a microfoni spenti, perché in realtà con queste difficoltà che... economiche che il nostro paese ha vissuto negli ultimi anni, in realtà per molte persone questo introito di reddito è stata stata la salvezza. Chi ha case grandi magari ha messo proprio in locazione una singola stanza. E detto questo, però, ecco, disciplinare dal punto di vista fiscale questi affitti è un po' complicato. Ma allora, diciamo come funzionerebbe e come funziona tutt'oggi e poi vediamo cosa cambia con la ritenuta. In questo caso, se, come capita nel caso della nostra ascoltatrice, presumo l'affitto non ha mai una durata superiore ai 30 giorni, non va registrato. Allora, una volta non registrato il contratto, perché non c'è questo obbligo, la nostra ascoltatrice si troverà con delle somme che ha incassato. Semplicemente, somme incassate nel 2017, nella dichiarazione dei redditi del 2018 le dovrà dichiarare come redditi di locazione e a quel punto, una volta dichiarate le somme, potrà eventualmente, direttamente nella dichiarazione, facendo una crocetta in una casella, scegliere la cedolare secca, se ritiene, certo, conviene quasi sempre, o se avesse delle ragioni particolari per non optare, allora starà in tassazione ordinaria. Quindi per Luisa, che ha iniziato quest'anno l'attività di locazione utilizzando Airbnb, in realtà la decisione la può prendere l'anno prossimo, prima cosa, esatto, cioè se optare per il regime ordinario o la cedolare secca. Poi secondo, per le somme che però sono appunto soggette alla fiscalità, quanto tutto quello che percepisce nel corso di un anno sulla base di tutti gli affitti brevi che fa, è Airbnb che si incarica di documentare la cifra complessiva che lei percepisce? No, dovrà essere lei che tiene conto, tiene traccia di una piccola contabilità domestica, insomma, delle somme che via via incassa. Ovviamente possono saranno... bastare i bonifici che certo, arrivano gli accrediti dai... effettuati sul conto corrente, queste somme le saranno riversate appunto su un conto con un bonifico e quindi le movimentazioni del conto corrente dimostrano le entrate ricevute. Quindi l'intermediario a fine anno non rilascia una certificazione ai proprietari che operano momento, attraverso di lui? No, al momento no. Poi entrerà in vigore la norma sulla ritenuta, è già in vigore, diciamo così, diventerà operativa la norma sulla ritenuta, allora in quel caso la nostra ascoltatrice si vedrà riversare il canone pattuito meno un 21%. Ecco. Allora in quel caso, se poi lei opterà per la cedolare secca, quel 21% che le è stato trattenuto esaurisce il prelievo, quindi lei non andrà poi con la dichiarazione dei redditi a pagare ulteriori imposte. Tutto questo per tutti gli affitti che però saranno stipulati a partire dal 1 giugno, cioè da qui in avanti. Da qui in avanti, tutto esattamente. Tutto quello che è stato fatto in tempi pregressi. Tutto quello che è già stato stipulato, se io avessi firmato, mettiamo a maggio, l'affitto per la casa al mare per il mese di luglio, ecco, quello è escluso dall'obbligo di ritenuta. Allora, Livio dalla provincia di Roma, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno Deborah. Ci dica tutto. Grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Dunque, io ho cominciato quest'anno dal 2017 ristrutturando una casa che possedevo dei genitori attraverso un intermediario web. Con la ristrutturazione fatta nell'anno scorso di circa 100.000 euro oltretutto, è chiaro che io sono a credito IRPEF, certo, per la normativa vigente. Nonostante io sia a credito, dovrò versare ulteriormente il 21% di cedolare secca incrementando il mio credito? Grazie Livio, lui chiede se può andare a compensazione fiscale. Cristiano. Allora, ecco, questa è una bella domanda. Diciamo subito che questa è una regola generale che c'è dal 2011. La cedolare secca è un'imposta sostitutiva, quindi se io ho delle detrazioni, per esempio per i lavori di ristrutturazione, non le posso sottrarre dalla cedolare secca, le posso sottrarre soltanto dall'IRPEF. Quindi nel caso del nostro ascoltatore... Se lui paga il fisco col regime ordinario, se può, lui paga, può andare esattamente, in compensazione. Esattamente, lui può andare in compensazione se rimane in IRPEF. Quindi per le somme che lui ha incassato, diciamo, per affitti stipulati fino al 31 di maggio, le dichiarerà in dichiarazione dei redditi senza optare per la cedolare, in modo da poter scalare le detrazioni da quegli affitti che va a incassare. Per quelle riguardanti affitti stipulati dal 1 di giugno in poi, cosa dovrà fare? Lui subirà una ritenuta del 21%, perché questo lo prevede la norma. Poi, ugualmente, in dichiarazione dei redditi non opterà per la cedolare e allora a quel punto la ritenuta che lui ha subito sarà a tutti gli effetti una ritenuta a titolo di IRPEF, rispetto alla quale potrà anche maturare un credito. Cristiano, stiamo andando verso la chiusura di questo approfondimento, ma per tutte quelle persone che in questo momento stanno decidendo cosa fare, come dire, il meccanismo fiscale è ancora un ibrido, non abbiamo ancora una certezza definitiva. Detto questo, secondo te che cosa conviene aspettare alle persone o in attesa che si chiarisca il quadro legislativo appunto di riferimento, magari qualche decisione in casi certi? Ma io direi che per il proprietario che dà in affitto un'abitazione, questa ritenuta è una complicazione burocratica, ma non aumenta il carico fiscale. Quindi chi sta per affittare una casa la può affittare, tutt'al più dovrà vedere se gli verrà riversato il 100%, su cui poi andrà a pagare le tasse, o se gli verrà riversato già il 79%, cioè se verrà già trattenuto il 21%. Il meccanismo più semplice in via teorica qual è, però, secondo te? Allora, il meccanismo più semplice in questo momento è quello che stanno, la soluzione che stanno seguendo alcuni agenti immobiliari, uno ce n'è anche scritto, che evitano di riscuotere il denaro per conto del cliente e fanno sì che l'inquilino paghi direttamente il proprietario. Come diceva prima Righi. Esatto, come diceva Righi, perché se non c'è un'intermediazione, in questo momento non c'è la ritenuta. Dopodiché, chi si appoggia a portali telematici per l'affitto, continui a farlo serenamente. I portali, il problema è più l'importante per i portali, è che i pagamenti siano tutti tracciati, certo, dopodiché certo. Per come dire, dovrà pagarci sopra esatto. Le tasse. Il problema della ritenuta riguarda principalmente i portali e gli intermediari che devono attrezzarsi per farla, altrimenti rischiano le sanzioni. Chiarissimo. Cristiano, senti, secondo te quando rivale la pena rifare una trasmissione? Che cosa aspettiamo a questo punto come prossimo step? Ma io aspetterei la conversione del decreto, dopodiché con un testo di legge definitivo capiremo come muoverci. Bene, allora chiamaci tu quando sei pronto. Volentieri. Con queste novità e noi naturalmente saremo pronte con cuore e denari. Nicoletta. Anche noi siamo pronti per dare il benvenuto al prossimo ospite, il professor Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia di Humanitas Immunocenter e docente all'Università Humanitas. Abbiamo anticipato che inauguriamo il nuovo tema della Salute Vien Parlando, un'iniziativa che ci vede a fianco degli specialisti di Humanitas. Come funziona? Intanto il professor Costanzo prende, eccolo lì, posizione, perché voi potete seguirci. Naturalmente in diretta Facebook. Intanto buongiorno professore, buongiorno. Grazie. Benvenuto. Per essere con noi. Vi racconto, per chi non conoscesse Cuore Denari, questa bella iniziativa che ci vede a fianco degli specialisti Humanitas, ogni mese un tema diverso. Giugno lo vogliamo dedicare naturalmente alla pelle. Giugno è il momento in cui ci lasciamo più piacevolmente baciare dai raggi del sole, alcune malattie cutanee tra l'altro proprio al sole migliore. Ma vogliamo mettere a disposizione naturalmente dei nostri ascoltatori gli esperti proprio per rispondere a tutte le domande. Io ho detto professor Costanzo dalla testa ai piedi, parleremo di pelle, di salute della pelle, di prevenzione, di cura, parleremo anche di unghie e di capelli perché sono un po' parenti, cugini della pelle. E quindi per darvi subito un così, che cosa potete fare? Potete chiamare subito l'800 24 0024, il nostro numero verde, ma potete anche scrivere alla salute@radio24.it. come nelle precedenti per i temi precedenti, ogni giorno, ogni settimana e lungo per tutto il mese potete trovare le risposte ai vostri dubbi, ma anche dei video del professor Costanzo che rispondono a quelle che sono le richieste più frequenti. Professor Costanzo, ho spiegato tutto, quindi ci sarà da lavorare e ci sono già i nostri ascoltatori che si sono messi in contatto con noi appena abbiamo pronunciato la parola pelle. D'altronde è l'organo più esteso. Quanto misura questo tessuto prezioso che ci riveste, cresce con noi e parla di noi? A seconda della corporatura tra 1.7 e 2 metri quadrati. Pensa, sì. Di tessuto preziosissimo. Stavo quindi già tu più quanti metri ne ho. Allora, vediamo intanto per darvi così un'idea di quello che è il servizio che vi mettiamo a disposizione. Abbiamo pensato di iniziare proprio con una batteria di domande, proprio perché sono diverse e tante le domande che potete fare ai nostri esperti. Iniziamo da Tiziana che ci chiama da Milano, poi abbiamo Davide dalla provincia di Reggio Emilia. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Ecco, così grazie. Lei dà un esempio di quella che è la salute Vien Parlando. Certo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, niente, io ho un problema alle mani, nel senso che ho una dermatite molto probabilmente da contatto. Sono risultata allergica dei test cioè praticamente sono allergica a tutto, dal cobalto piuttosto che al nickel, piuttosto sì. Che ai solfiti, insomma. E mi si presenta una vita un po' così complicata, certo, perché le mani... Esatto. Allora, io voglio sapere dal professore, qual è un'alimentazione giusta da seguire, qual è un processo da seguire per poter stare bene, ecco, una strada e perché, Ecco, una direzione. Tiziana, ma lei ha ricevuto una diagnosi da un dermatologo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, professore. Beh, a volte quando si è allergici a così tanti agenti è la pelle ad avere una difesa abbassata. Sì. E la condizione più comune nell'adulto alle mani è la dermatite atopica. In realtà non è che come la signora è allergica a tanti diversi agenti, è che la sua pelle non riesce a fare barriera, quindi sostanze che su di noi non hanno nessun effetto, magari sulla signora danno una risposta infiammatoria. L'infiammazione è una delle poche cose che sa fare la pelle quando viene a contatto con sostanze esterne e irritanti. Quindi innanzitutto l'idratazione della pelle, che serve ad aumentare un pochino la barriera cutanea, utilizzare cosiddette creme barriera che riducono la penetrazione di agenti esterni attraverso lo strato corneo, che è la parte più superficiale dell'epidermide. E per quanto riguarda l'alimentazione, vale la regola per esempio di aumentare un pochino l'introito di omega 3 e omega 6, che sono degli acidi grassi tra virgolette buoni. Apro una piccola parentesi, ma abbiamo parlato degli omega 3 e degli omega 6 insieme al professor Scapagnini recentemente, e quindi c'è in archivio la puntata, se volete ascoltarvela. Quindi non dico di mangiare una spigola al giorno, ma esistono degli integratori con alto contenuto di questi acidi grassi che riducono l'infiammabilità. Quindi il problema è inverso, non è allergica a tante sostanze, ma probabilmente la sua pelle è più, tra virgolette, fragile, vulnerabile, un pochino più schizzinosa. Di solito quando vediamo tante allergie assieme, in realtà è la pelle più debole, non il sistema immunitario più arrabbiato. Davide ci chiama invece dalla provincia di Reggio Emilia. Buongiorno Davide. Esatto, buongiorno. Esatto, buongiorno, vero che l'abbiamo indovinata, vede che occhio lungo ci abbiamo. Bravo. Allora, grazie Davide per lo spazio e complimenti anche da parte mia. Grazie. Io volevo chiedere al professore, visto che proprio ieri mi sono accorto che una malattia diagnosticata l'anno scorso da mia figlia, che ha 5 anni, come vitiligine, e gli si è diciamo visualizzata anche in faccia con una macchia bianca. Di solito la vitiligine, a quanto ci hanno spiegato, sono delle macchie bianche che appaiono. La prima era comparsa l'anno scorso su un fianco, diciamo, finché il problema è rimasto così ridotto e non così visibile, non ci siamo preoccupati più di tanto. Poi proprio cosa di un giorno, ieri ci siamo accorti che forse dopo i primi soli, non so se è dovuto anche a questo, comunque la cosa è venuta fuori anche intorno all'occhio, dove tra l'altro penso sia difficile anche utilizzare delle creme. E quello che so io è che ci hanno detto che momentaneamente non è proprio curabile questa malattia. Allora, volevo avere magari grazie, una conferma, grazie Davide, perché intanto chiediamo al professor Costanzo, e questa è una dimostrazione proprio che dalle vostre domande, dai vostri interventi prendiamo spunto per trattare alcuni temi che sono molto interessanti e possono essere particolarmente interessanti per chi si trova in questa situazione. Parliamo di vitiligine. Che malattia della pelle è e soprattutto come si presenta? Sempre con delle chiazze bianche e poi evidentemente anche in età molto anche nei bambini. Certo, è una malattia autoimmunitaria. Sì. Quindi noi vediamo un'aggressione contro le cellule che producono la bronzatura. E si manifesta tipicamente in alcune zone del corpo, almeno all'inizio. Poi può estendersi, abbiamo avuto presidenti della Repubblica con vitiligine molto, molto estesa. E il viso e la parte attorno agli occhi del viso è una delle prime zone dove si manifesta. Assieme al sistema immunitario c'è pure un aumento della produzione di reattivi dell'ossigeno in queste celluline che producono la bronzatura, e questo ne riduce la funzione. Questa è la vitiligine. Si può controllare. Ecco, ma voi siete in grado di capire se è una malattia, cioè se la vitiligine interesserà delle zone abbastanza estese del corpo oppure È una malattia un po' imprevedibile. Ecco. Noi adesso conosciamo le basi genetiche di questa malattia, c'è cioè una predisposizione, e questa predisposizione è a carico di geni che controllano il sistema immunitario. e controllano la pigmentazione. Quindi questi sono le due grossi gruppi di geni malati, tra virgolette. L'andamento è imprevedibile, si può controllare utilizzando degli stimolatori della produzione di melanina. Il primo stimolatore è il sole. Esatto. O lampade particolari che vengono mirate sulle zone più chiare. Si presenta, come ha detto il nostro ascoltatore, con delle chiazze bianche che devono essere distinte da altre malattie simili che possono comparire anche nel bambino. La stessa dermatite atopica ha una forma che si manifesta con chiazze più chiare. Certo, però non è vitiligine. È importante quindi rivolgersi al dermatologo, perché lui è in grado, essendo l'esperto della pelle, ma anche di capelli e di unghie, di fare una diagnosi precisa. Intanto, indicazioni: la bambina è molto piccola e il suo papà è preoccupato perché dice: ma nella zona intorno all'occhio sarà difficile anche intervenire con una terapia locale. Professore, quale messaggio ha da dare al papà, ma anche alle persone che hanno la vitiligine e che quindi si trovano anche a dover mettere in atto alcune precauzioni anche in previsione dei raggi solari che diventeranno più aggressivi, tra virgolette? I raggi solari aiutano, naturalmente, però rendono anche più evidente la malattia, perché la zona attorno alla chiazza si abbronza più facilmente. Quindi esistono dei prodotti che stimolano la produzione di melanina nella zona ipopigmentata, noi diciamo così, la chiazza bianca, e che assieme all'esposizione solare possono cercare di pareggiare un pochino la apparenza. E quindi non avere molta differenza. Non avere molta differenza tra... Allora, noi ci fermiamo, abbiamo anche Paola dalla provincia di Bologna, state chiamando il nostro numero verde, potete scriverci anche su WhatsApp o scrivere a salute@radio24.it. Vorrei proprio fare una puntata, questa puntata iniziale, per rispondere a tutte le vostre domande, perché la salute viene parlando, quindi parlateci della vostra pelle. Il professor Costanzo è qui in studio con noi, in diretta Facebook. Inviate naturalmente anche le vostre domande via Facebook e noi andiamo a sentire che cosa succede ai mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. E questo io l'ho capito sulla mia pelle. Sulla mia pelle. Abbiamo tutto il mese di giugno e naturalmente per parlare di pelle continueremo a farlo perché l'argomento è molto interessante. Oggi in studio con noi lo specialista Humanitas della salute viene parlando, il professor Costanzo, pronto a rispondere alle vostre domande. 800 24 00 24. Professor Costanzo, parliamo anche di sole, perché questo è il suo tempo, non è un segreto, il sole ci piace, ci fa anche bene, l'umore senza dubbio ci guadagna, perché quando ci lasciamo baciare dal sole aumenta la produzione di quello straordinario antidepressivo naturale, la serotonina, che agisce proprio sul controllo dell'umore. Però non è l'unico vantaggio, il sole ci fa belli, perché la tintarella che ci regala, insomma, ci dà quell'idea, no, di più sano, ma anche e soprattutto sani. E il segreto sta nella vitamina D, che è nota anche come vitamina del sole, perché proprio grazie al sole che il nostro corpo attraverso la pelle è in grado di sintetizzarla e di produrla. Tra l'altro si continuano, professor Costanzo, a scoprire nuovi e interessanti benefici di questa vitamina, anche se in realtà non è proprio una vitamina. Quali sono le ultime novità? Sono usciti recentemente dei lavori che attestano come possa proteggere da alcuni tumori, quindi già questo dovrebbe bastare. Riguardo il benessere conseguente all'esposizione solare, c'è una precisazione da fare. L'abbronzatura è una conseguenza del danneggiamento del DNA, cioè è una protezione. È un meccanismo di difesa. Esatto. E in questa protezione interviene, oltre alla serotonina, che abbiamo visto, proprio un ormone oppioide. la nostra pelle riesce a produrre un ormone, quando colpita dal sole, che si chiama proprio melanocortina. Oppio, perché una parte di questa proteina ci fa stare bene. Melano, perché c'è un ormone che stimola la melanogenesi e quindi la bronzatura. E cortina, perché c'è un ormone corticostimolante, quindi aumenta la quantità di cortisolo in circolo. Tutto questo ci fa stare bene e protegge la nostra pelle dal sole. Non in tutti, però, perché alcune persone, specie chi ha il fototipo rosso, hanno delle mutazioni per cui non viene prodotta una melanina che protegge. Queste persone devono stare particolarmente attente, proteggersi molto con le creme solari, perché sono loro quelle più predisposte a sviluppare dei tumori della pelle. Due regole di protezione, professor Costanzo. Gradualità nell'esposizione, anche se quando arriva il weekend e se il tempo è bello, tutti corrono ad ustionarsi. È difficile resistere, perché sappiamo, voi ci ripetete, gradualità, mettetevi all'ombra, non le zone centrali, la magliettina, il cappellino, la protezione solare. Poi quando uno è lì a sola a disposizione una giornata, dice vabbè dai mi butto, poi se avete fatto così, eritemini, bolli, rossore eccetera, chiamate, spellature varie. È proprio l'eritema che va evitato, perché quello che si è visto in popolazioni australiane, quindi popolazioni con una carnagione chiara, rossi esposte sono. Anche rossi, sì, esposte a un sole piuttosto potente, il numero di scottature solari durante l'infanzia e l'adolescenza è direttamente proporzionale all'incidenza del melanoma. Quindi la dose totale di sole influisce sull'invecchiamento cutaneo e sulla comparsa di tumoretti istologicamente maligni ma clinicamente benigni, e si chiamano basaliomi o epiteliomi squamocellulari, che vengono rimossi e finiscono. Il nome è brutto, però non fanno paura. Però non fanno paura. Il numero di scottature solari invece è direttamente proporzionale all'incidenza di melanoma, che è il tumore più aggressivo. Quindi dobbiamo proteggerci. Andate indietro nel tempo, sì. Se vi siete scottati molto, adesso il professor Costanzo ci spiegherà esattamente che cosa i dermatologi intendono per scottatura, perché spesso non parliamo lo stesso linguaggio. Se pensate di essere stati particolarmente disinvolti sotto il sole, andate indietro nel tempo, quando si usavano ad esempio delle creme che sembravano molto unte, che regalavano una bronzatura, si era tutto dei pescioloni. Con mia cugina ne usavo una che si chiamava estratto di zanahoria, quindi la carota era arancione fosforescente. Ecco. Santo magari cielo. Controllate i vostri nei, andate dal dermatologo, fatevi dare una controllata, è una buona abitudine. Quando lei mi dice, professor Costanzo, bisogna evitare l'eritema, la scottatura, ma che cosa intende esattamente? Perché l'eritema solare è l'arrossamento, di solito accompagnato a prurito. Questo è e che a volte esita nello scollamento della parte superficiale, cioè, dell'epidermide. Va via un po' la pelle. Esatto, esatto. Tradotto in... Questo è l'eritema solare. E invece quella specie di rossore un po' a ponfi, che però il giorno dopo si attenua, è sempre una scottatura oppure... Quando compaiono i ponfi, di solito i ponfi sono associati al prurito, e quella è già scottatura. Allora... attenzione e precauzioni per andare al sole, allora non le ore centrali, le ore più, però uno dice poi non mi abbronzo. Allora, indicazioni del nostro dermatologo del cuore per proteggere la nostra pelle. Allora, valgono le regole classiche della esposizione nelle ore meno calde. La protezione solare va applicata sin dall'inizio e con un fattore di protezione alto. È uscito un articolo 6 mesi fa, molto interessante, uno studio piuttosto approfondito sulla quantità di crema che noi riusciamo ad applicare. Quella protezione che vediamo sul tubetto è determinata applicando 2 mg per centimetro quadrato di crema protettiva. Cioè? Una quantità per cui noi consumeremmo un tubetto ogni 2 giorni. Una quantità molto elevata. Altro che cuore dei mari. Qua ce ne vogliono tanti. Riusciamo ad applicare tra il 25 e il 50% della quantità necessaria. Ma c'è un problema, che non c'è una relazione diretta tra la quantità e la protezione, ma è una relazione esponenziale. Quindi si è calcolato che utilizzando una crema 50 noi ci proteggiamo tra 6 e 8. Pazzesco. Questa è la prima cosa da tenere a mente, cioè applicare una crema ad alta protezione non vuol dire non abbronzarsi, vuol dire evitare la scottatura solare, quindi proteggere dal rischio di melanoma, vuol dire avere una abbronzatura più duratura e dobbiamo tener conto di questo fatto, cioè del fatto che una crema 50 in realtà protegge 8-10. Quindi molte volte portiamo a casa addirittura i solari dalle vacanze e una esatto. domanda classica è: dottore, posso usare il solare dell'anno scorso? Vuol dire che non ci siamo unti o spalmati di crema abbastanza. Esatto. Ma lei ad esempio un tubetto, professore, a lei quanto dura? Dura una settimana, 10 giorni. Quindi anche lei si protegge poco, perché in effetti poi costano parecchio. Ah sì, quelli buoni, perché lì è un altro bel capitolo. Poi lì qua una di queste volte la becco per capire un po' che cosa dobbiamo leggere in questa benedetta etichetta, che bisogna diventare dei chimici. Bisogna vedere se la protezione è anche per gli UVA. Perché mentre prima si pensava che solamente gli UVB, cioè quella frazione del sole che danneggia direttamente il DNA, fosse responsabile dell'abbronzatura, ma soprattutto del danneggiamento delle cellule, quindi del rischio di tumore, adesso si sa che attraverso i radicali liberi dell'ossigeno anche gli ultravioletti A possono indurre un aumento di incidenza di tumori cutanei e dell'invecchiamento cutaneo. Quindi è importante vedere che ci sia una protezione anche per gli UVA. Esistono adesso spray sia su base alcolica che emulsioni che rendono l'applicazione molto più conveniente. Sì, perché ti ricoprono sì, sì, sì, un gli po', spray su base alcolica sul corpo vanno bene. Allora, però, attenzione, sì. Nando da Cagliari, professore, dice: se usiamo le protezioni totali, addio alla vitamina D. Ne abbiamo parlato così bene, è vero o è falso? No, è falso. È falso. È falso. Alle nostre latitudini, camminare per strada 5-10 minuti al giorno è sufficiente a darci l'apporto di vitamina D corretto. Quindi camminate e esponetevi. Intanto Angela dalla provincia di Milano, Paola dalla provincia di Bologna, Antonio dalla provincia di Bari, restate con noi perché c'è anche adesso una domanda di Deborah da Milano, gliela posso fare poi al prof? Va bene, allora in ordine alfabetico ti metto tra la Angela dalla provincia di Milano e la Paola dalla provincia di Bologna, mettiamo la Deborah da Milano, da via Monterosa 91 e andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, tra poco. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Cuore allora, e denari. Adesso qua parlano. Andiamo. Senti, dalla pelle al cuore, Deborah se la ride perché le ho portato lo specialista che proprio piace, in studio. Sì, sì, sì, sì, sì. Allora dai, facciamo la domanda da perché no, diciamo che sapere, sei un po' raccomandata. Ma sì, no, se per esempio fare delle docce solari a partire da marzo, aprile per preparare la pelle. Adesso attenta cosa soleone, risponde, perché io a me l'ha fatta e io gli ho dato una risposta. Vediamo che te cosa l'avevo dice. L'avevo già fatto, sono pure ripetitiva. Tutti gli anni me la fai e io tutti gli anni ti si dico. Si vede che la risposta non mi piace, non, te voglio le piace, professor Costanzo, ci provi lei. Con protezione, senza scottarsi, sì, perché no? Sì. Se noi arriviamo al mare, diciamo così, con mozzarellone, magari non va bene. Esatto, c'è un più alto rischio di scottatura, certo. Quindi lei le fa fare la lampada? Io non gliela avrei permessa. Allora, la lampada in alcuni paesi no, è addirittura no. vietata. Tipo in Irlanda. Hanno chiuso i centri solari perché hanno una carnagione che no, sono dei fototipi esatto per via del fototipo il nostro. Senti, fototipo è più sì, no sì, ma sì. Io va bene comunque vedi ma, che ma gira io faccio, rigira ma adesso di la verità gira, io le faccio io non sono d'accordo. Guarda, mi sembra una mozzarellona gigante. Angela, buongiorno dalla provincia di Milano, benvenuta. Buongiorno. Innanzitutto voglio dire che siete due stelle nel firmamento di Radio 24, perché siete veramente stupende. Grazie, Angela. E poi Niente, io da ragazza ho fatto un abbronzante fai da te. Un intruglio. Quella... Ecco, come una volta. E quindi sono rimaste delle macchie sulla pelle. Che non riesco ad eliminare. Angela, grazie. Così diciamo agli amici da casa: non fate gli intrulli, l'olio con un po' di carota, no, un po' di limone oppure la marmellata di fichi, eccetera, perché poi la pelle non dimentica, si offende, non dimentica, esatto. E si macchia. Professor Costanzo. E alcune macchie, come immagine, esatto, sono come dei tatuaggi. E tant'è che vengono rimosse con quei laser che si utilizzano anche per rimuovere i tatuaggi. È importante distinguere macchia da neo, quindi un controllo all'anno dal dermatologo va fatto. E ci sono alcune macchie, specie sul viso, che in realtà possono essere delle fasi inizialissime di melanoma. E quindi anche in questo caso la diagnosi va fatta andando dal dermatologo. Per le altre macchie, le macchie solari, diciamo così, esistono dei laser per rimuoverle. Ecco, sì. L'utilizzo del laser per cancellare le macchie, naturalmente dopo aver ricevuto una diagnosi dal dermatologo, sì. Ecco, qual è il periodo ideale per fare questa operazione di... Autunno e inverno. Ecco, perché adesso con l'estate adesso no. Assolutamente perché c'è una prima fase di infiammazione e rimarrebbe poi... un segno, un altro tatuaggio esatto. Su tatuaggio. Paola, buongiorno dalla provincia di Bologna, buongiorno, parliamo ancora di macchie, perché le macchie dovremmo dedicare una puntata intera, perché buongiorno. Sono diverse, di diversi colori, diversa forma, si modificano, alcune restano uguali. Paola, a lei che cosa è capitato? Buongiorno. Dunque, a me è capitato questo. Avevo delle verruche nelle gambe, delle specie, diciamo, di verruche. E quando ero giovane, avevo 20 anni, e me le hanno tolte, me le hanno bruciate. Che dolore. Nelle gambe avevo, sì. dal ginocchio in giù. Sì. E questo naturalmente mi ha lasciato delle macchie. Anche lì. L'ho fatta vedere già dal dermatologo, che mi ha detto di non prendere il sole, di non fare delle lampade... e praticamente di darmi solo l'autoabbronzante. Però questo naturalmente non va bene, perché mi fa le macchie rimangono, ma sono diventano più scure. Certo. Posso fare qualcosa? Allora, Paola, che cosa può fare, professore, con questa macchie che sono da un esito cicatriziale? Una iperpigmentazione post-infiammatoria, quindi durante la procedura si crea una piccola infiammazione cutanea e probabilmente è rimasto del pigmento. Questo pigmento può essere eliminato con i laser di cui parlavamo prima. Esistono delle sostanze ipopigmentanti, cioè che riducono la pigmentazione. Sì. Adesso in realtà ne esistono poche di queste sostanze, la maggior parte è vietata. Quella che ha utilizzato Michael Jackson per sbiancarsi adesso non può più essere utilizzata in Italia. E quindi una combinazione di alcune creme con trattamenti laser può migliorare la situazione, ma bisogna vedere che tipo di macchie sono e qual è l'estensione. Ma senta, a proposito di verruche, sì. Perché attenzione, perché poi adesso si cammina magari sul bordo della piscina, si fa la doccia, mettetevi queste pantofoline di gomma e non andate a piedi nudi, le raccomandazioni delle mamme, poi la fretta o magari uno non segue tutte queste attenzioni. Adesso per le verruche, siete in grado di eliminarle con più facilità senza farci male, oppure e soprattutto i trattamenti locali che vengono acquistati in farmacia per le verruche funzionano? Lei li consiglia? Beh, di solito non funzionano perché non siamo abbastanza aggressivi su noi stessi, per esempio l'azoto liquido che si vende in farmacia non è sufficiente per eliminare completamente le verruche, specie quelle più spesse. Esistono una varietà di sostanze chimiche che vengono utilizzate per eliminare le verruche, ma devono essere utilizzate con costanza per molto per molto tempo e le metodiche, quelle più efficaci, sono la rimozione con la diatermocoagulazione, con il laser. Sono molto contagiose. Se abbiamo il bambino che ha le verruche sul piede, dobbiamo cambiare tutti con attenzione gli asciugamani, attenzione, non camminare scalzo che poi le attacchi al fratellino. No, è più la pelle che è predisposta rispetto al virus. Allora, e abbiamo anche Antonio dalla provincia di Bari. Buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno. Vi ringrazio per avermi chiamato. Radio 24 è la mia radio, dalle 6:30 alle 13 la mattina. Senta, volevo chiedere... Queste dichiarazioni sono sempre piacevoli, vero? Noi le richiediamo, ma ci fate molto piacere. Le stelle del firmamento. Allora, Antonio. Volevo chiedere al professore, adesso che viene l'estate, io ho la psoriasi. Qual è il comportamento consigliabile al mare? Se è opportuno dopo il bagno coprirsi o prendere il sole e se ci sono delle creme protettive particolari per la psoriasi? Non ci sono creme protettive particolari. Bene utilizzare una crema piuttosto che uno spray su base alcolica perché la pelle dello psoriasico va idratata. Il sole fa bene alla psoriasi nella quasi totalità dei casi. Quindi il consiglio è quello di andare al mare, il sole più il sale dell'acqua di mare di solito migliora la chiazza di psoriasi volgare, specie quella presente sulle ginocchia, sui gomiti, è una malattia piuttosto frequente. Quindi non ci sono controindicazioni al sole e al mare. Bisogna idratarsi bene. Esatto. E poi mi raccomando, Antonio, ricordiamoci tutti che solitamente mettiamo una quantità di crema che non è mai adeguata, per cui una seconda passata male non ci fa. Maurizio della provincia di Lucca, avremo proprio un minutino. Nel caso le rispondiamo via mail. Maurizia, vada. Sì, la sento. Io volevo chiederle perché ho un'acne rosacea e volevo sapere il comportamento per al sole, al mare e le creme da dare. Allora, la mandiamo al mare, Maurizia, con l'acne rosacea? Sì, ma si deve proteggere bene, perché gli ultravioletti aumentano la produzione di queste piccole venuzze, chiamiamole così, e quindi... un aumento del rossore del viso. E poi rinfrescarsi spesso con anche un po' lo spruzzino, insomma non far venire troppo calda la pelle. E ci sono dei solari specifici per Maurizia, per le persone che hanno la rosacea? No, non ci sono solari specifici. Particolari, alta protezione e rinnovare spesso l'applicazione. Professore, l'abbiamo fatta lavorare, ma ho visto che le ha gradito questo incontro con gli ascoltatori di Cuore Denari, che possono naturalmente continuare ad avere le risposte e le indicazioni del professor Costanzo, perché questo è il mese della pelle, quindi è il mese tutto suo. Continuate a scriverci salute@radio24.it. trovate anche naturalmente dei video del professor Costanzo che trattano i temi particolarmente caldi per la salute della pelle. Noi ci sentiamo domani. A domani, buona giornata a tutti.